Noi abbiamo da un mese e mezzo circa, facciamo questa richiesta che vengono anticipati, perché il FIS, che è il fondo che finanzia le borse di studio, verrà ripartito, però non sapendo quanto, chiaramente non potevamo lasciare il 15% degli studenti idonei senza borsa di studio, che come si ricordava giustamente sono più di 3.000 studenti. Allora facevamo richiesta che la Regione anticipasse fondi. Siamo contenti che comunque si sia trovata una soluzione, ovvero che gli Atenei anticiperanno questi fondi per finanziare, diciamo, la parte di studenti che sono rimasti fuori. Quello che noi comunque continuiamo a chiedere, che qui, diciamo, ci mobiliteremo sia per ricevere informazioni, sia, diciamo, per chiedere che la situazione non rimanga tale, è appunto sia sulle tempistiche che sulla modalità, diciamo, di erogazione dei servizi del diritto allo studio, di cui hanno parlato, ma sulle tempistiche, diciamo, sono rimasti un po' vaghi, sia poi soprattutto sul fatto che, come si ricordava, è stato questo taglio trasversale a tutte le borse di studio, da circa 60 a quasi 300 euro, e il che ha fatto sì che, cioè, qualche milione di euro venisse comunque guadagnato dalla Regione. E quindi, cioè, ci chiediamo, questi soldi verranno restituiti? Verranno investiti in qualcosa? Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta confortante da questo punto di vista, e ci sembra quantomeno, insomma, interessante provare a dare delle risposte anche agli studenti, perché 200 euro corrispondono a una mensilità di un affitto. Infatti volevo proprio chiederti quanto incide un eventuale taglio di questo tipo. La borsa di studio, cioè, sicuramente per gli studenti, cioè, 200 euro fanno la differenza. Questo sì, anche perché, tra l'altro, rispetto alle borse di studio esiste tutta una serie di problemi rispetto ai tempi di erogazione. Cioè, la borsa di studio non arriva a settembre, ma arriva a novembre, cioè quest'anno è arrivato dopo Natale, a dicembre, fine dicembre. Quindi chiaramente già arriva tardi, avere anche 200 euro in meno, soprattutto perché, ad esempio, chi è in studentato deve anticipare tutte le mensilità dell'affitto, ad esempio. Sono tutti problemi che non si conoscono, ma per chi effettivamente riceve una borsa di studio e quindi si presuppone che quei soldi, di quei soldi ne ha bisogno, la situazione chiaramente non è semplice, e vedersi togliere 200 euro, 100, 200, quasi, sono circa 260 in massimo, insomma, è un po' la differenza fa. Poi sicuramente non averceli è anche un problema anche più grave, però penso che sia quantomeno importante provare a restituire tutti questi fondi agli studenti a cui sono stati sottratti, e soprattutto almeno dire dove, cioè, per cosa vengono investiti, cioè, in cosa verranno utilizzati, perché se i soldi arriveranno non sappiamo perché fare questo taglio, insomma. Non è che c'è il sospetto che il ministero non trasferisca tutti i fondi che aveva promesso? No, nel senso, siamo più che sicuri che comunque il riparto del FIS, che quest'anno verrà, cioè il ricalcolo avverrà sulla base del fabbisogno delle regioni, sia comunque, cioè, essendoci anche un aumento delle iscrizioni in Emilia Romagna, non ci sia questo problema. Però, cioè, non vorremmo che questo fatto, cioè, di tagliare le borse di studio con la sicurezza, però poi effettivamente reale, che i fondi arriveranno, sia un modo, diciamo, anche per riprendere un po' di fondi con questa manovra. Poi non per fare, se vogliamo fare false supposizioni, appunto, da tempo che chiediamo delle spiegazioni, se ce le danno, insomma, siamo tutti più contenti. Ecco, su questo taglio all'importo, hai detto prima, comunque vi mobiliterete. Sì. Certo, ora stiamo aspettando risposte, però sicuramente, cioè, siamo in contatto con degli studenti attraverso il gruppo Giù le mani dalla borsa, studenti di tutta la regione, sia negli studentati che non negli studentati. In realtà poi gli studenti che si sono uniti alla protesta sono anche quelli che hanno ricevuto l'importo di borsa, perché in realtà la nostra protesta vuole provare ad andare anche oltre rispetto a tutti i problemi che esistono sul diritto allo studio, che non riguardano soltanto il fatto che non esisteva, cioè ad oggi non erano state consegnate le borse di studio al 15% degli studenti, ma potremmo arrivare, penso, a domani elencando tutti i problemi del diritto allo studio, anche solo partendo dagli studentati, che è un mondo tutto da esplorare, ecco, diciamo.